Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Dio, come passa velocemente il tempo. Era infatti 3 anni fa, per la precisione 3 anni e 12 giorni fa, il 6 agosto del 2007, quando, come avviene con certe dighe, che poi purtroppo crollano, iniziava a verificarsi una prima crepa nel sistema finanziario economico mondiale. Avrete capito che oggi parleremo e faremo il bilancio di dove siamo arrivati con questa crisi, approfittando anche di una giornata che presenta qualche notizia, adesso la ricorderemo, sul fronte economico-finanziario, ma per fortuna ogni tanto esistono anche queste giornate. È una giornata abbastanza tranquilla per quello che riguarda le notizie di economia e di finanza, però insomma, 3 anni fa, con il fallimento di una società sconosciuta ai più, si chiama American Home Deposit, iniziavano gli scricchioli che avrebbero poi portato all'apertura della falla vera e propria e poi a quelli che hanno chiamato il vaillant della finanza e dell'economia, con tutte le varie fasi che ha seguito questa crisi, prima finanziaria e quindi sulle banche, sulle società che erano indebitate con mutui subprime e con strumenti collegati di assicurazione e riassicurazione sui rischi di questi mutui dati già ad alto rischio. Poi le banche, il sistema bancario non regge, si passa agli stati e alle banche centrali che devono imbarcare debito comprando questi prodotti tossici che le banche non riescono più a collocare, non riescono neanche più a prezzare, cioè a sapere quanto valgono. Gli stati quindi imbarcano deficit e debito, si passa poi dalla seconda fase alla terza fase in cui gli stati si mettono a comprare con tassi di interesse bassissimi obbligazioni, ed è per questo che poi quando alcuni paesi dell'area euro iniziano a scricchiolare, e questa è la cronaca più recente, vanno malissimo titoli bancari e anche l'intero sistema soffre, perché l'intero sistema si è riempito di titoli di Stato, oltre che essersi riempito anche di debiti, perché insomma chi le avrebbe mai detto che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna avrebbero avuto deficit superiore al 10% e un debito che vicino a quello italiano, nel caso americano, l'avrebbe già superato, se consideriamo il debito federale con il debito dei singoli stati, cioè al 140% del PIL. Tutto in 3 anni, anzi meno, in 2 anni. È cambiato il mondo, da stati virtuosi, penso all'Europa con Maastricht e tutti i vincoli che esso poneva, a stati che hanno sfondato il deficit al 5% e il debito che galoppa. Ultima fase, quella in cui siamo arrivati, la tensione appunto sugli stati più a rischio, sulle emissioni obbligazionarie, in la necessità di rientrare da questi deficit. Non si capisce bene come, perché la solidità di questa ripresa è tutt'altro che acclarata, tutt'altro che certa. Ne parliamo anche perché Sole 24 Ore ha iniziato proprio lo scorso 6 agosto un'inchiesta molto bella, avremo due degli autori di questa inchiesta, sullo sviluppo, la nascita e lo sviluppo di questa crisi finanziaria. È un'occasione per ragionare anche della nuova era della finanza, ciò che resta della vecchia finanza, ma è anche un'occasione in un periodo appunto estivo per ricordare come siamo arrivati qui, come siamo riusciti in soli 2 anni a mutare quella che è la forma e la geografia finanziaria del mondo. Ripeto, un'America con un debito al 140% del PIL e un deficit al 14% del PIL era una cosa inimmaginabile solo 3 anni fa. Di questo parleremo in apertura e poi ne parleremo anche col presidente dell'Istat, che oggi si è meritato una foto e un articolo lungo sul Wall Street Journal, perché Enrico Giovannini ha detto: attenzione, i dati c'erano e infatti qualcuno questa crisi l'aveva prevista, bastava leggerli. Certo, i dati delle banche non li potevamo leggere, ma quelli non erano dati, erano bilanci, ma i dati statistici sulla bolla immobiliare c'erano, e sarà anche l'occasione per capire adesso se non si rischi, come ha detto quel gufo di Greenspan, una nuova piccola recessione, una nuova piccola bolla da eccesso di liquidità. Cosa vuol dire? Vuol dire che il denaro, quando costa così poco, è un rischio e i tassi di interesse sono a zero. Come vanno le borse? Vedo che già qualcuno lo chiede. Le borse vanno tutto sommato maluccio, ma niente di grave. 0,5 punto percentuale Parigi di calo e anche Francoforte, 0,5 punto percentuale lo perde Londra, anzi adesso meno 0,88 per la precisione, l'America perde lo 0,25, Milano meno 0,70%, peggior titolo Finmeccanica meno 1,90, Geox meno 1,40 come Telecom Italia, Enel meno 1,35, Buzzi e Unice meno 1,3, Luxottica meno 1% come le generali e Impregilo, euro a quota 1,28,62. Prima di passare con le notizie in breve, come sempre il numero per i vostri sms 349-238-6666. E partiamo come sempre dal petrolio, che ha aperto oggi sotto i 75 dollari al barile, ma soprattutto ha rialzato un po' la testa dopo che c'è stato un calo delle scorte americane di petrolio superiore alle attese. Dal mondo però, diciamo, delle cosiddette commodities, delle materie prime, la notizia più importante è quella che arriva da BHP Billiton, che è la più grande società mineraria al mondo. Oggi infatti è arrivata la conferma di un'offerta da 40 miliardi di dollari direttamente agli azionisti, quindi una vera e propria offerta d'acquisto, per rilevare Potash Corporation, che è il maggior produttore di fertilizzanti al mondo. Va detto che proprio tramite la crisi si è arrivati a grandissime operazioni di fusione nel settore della chimica e anche nel settore minerario. E ancora sull'economia internazionale, il dato potrebbe quasi essere un'introduzione al nostro speciale sulla nuova era della finanza. Perché? Perché l'elevato tasso di disoccupazione, che è stata una delle fasi di questa crisi finanziaria, poi economica e poi occupazionale, ha portato il costo dei dipendenti dei call center americani allo stesso livello di quelli indiani. Perché questo? Perché in sostanza è venuto fuori che la disoccupazione americana in diverse aree del paese, soprattutto della popolazione ispanica, ha fatto scendere tutto il settore outsourcing, nel caso specifico il settore che riguarda i call center, allo stesso livello dei servizi indiani. E il colosso dei servizi aziendali tecnologici Genpact si aspetta di triplicare la propria forza lavoro negli Stati Uniti, perché a questo punto l'operaio, il dipendente, scusatemi, del call center americano diventa competitivo con quello indiano. Conosco già l'obiezione: se questa è una conquista, no, sicuramente non è una conquista, però insomma, questo è quello che sta capitando. La richiesta di mutui ipotecari negli Stati Uniti ha segnato un balzo del 13% la scorsa settimana, sostenuto da un'impennata dei finanziamenti. E nel dettaglio sono calate le richieste di mutuo per acquistare direttamente una casa, effettivamente una casa, mentre sono aumentate moltissimo le domande di rifinanziamento di un mutuo già esistente. E poi ne parleremo perché, insomma, secondo Robert Shiller è un economista candidato da sempre al premio Nobel, soprattutto ha un indice che porta il suo nome, l'indice delle case in America, per sapere come vanno le case e il sistema immobiliare, e si chiama indice Shiller. Insomma, Shiller ritiene che la bolla immobiliare americana potrebbe ancora dover scoppiare. Ora, insomma, Shiller è veramente un guru su questo, nessun dubbio che, insomma, possa aver ragione. Però, insomma, l'indice Shiller dice che gli ultimi dati mostrano una lievissima ripresa dei valori immobiliari a quota 147, ben lontani dai massimi storici a quota 206 segnati dall'aprile 2006. Però lo stesso Shiller ha detto che, insomma, non ha chiaro se la bolla attuale sia del tutto esplosa o meno. Ed ecco perché oggi è tornato sul tema. Ora, così come noi abbiamo dedicato il nostro animale preferito Alan Greenspan quando ha detto 2 settimane fa che forse si era di fronte a una mini recessione, non se ne abbia nemmeno Schiller se il gufo estivo, il gufo in costume da bagno, il gufo balneare arriva anche per lui. E speriamo veramente che abbia torto Schiller, perché ci manca solo una nuova bolla immobiliare negli Stati Uniti. Comunque, oggi l'altro dato riguarda l'OCSE, diffonde i dati sulla crescita economica nel secondo trimestre dell'anno dei paesi aderenti, più 2,8%. L'Italia ha fatto più 1,1 anno su anno, quindi secondo trimestre del 2010 rispetto al secondo trimestre del 2009. Molto bene, come già si sapeva, la Germania, che ha messo veramente il turbo, più 3,7%. Il secondo trimestre 2010 rispetto al secondo trimestre del 2009. E infatti, insomma, il titolo dell'OCSE è molto emblematico: la Germania e anche la Gran Bretagna, questo è più interessante perché non era atteso, stanno guidando la ripresa in Europa, mentre rallenta la ripresa nel Giappone e negli Stati Uniti. E poi l'Italia, e veniamo poi alla storia di questa crisi, vediamo se ce la facciamo raccontare in un'unica puntata, ma insomma c'è già chi scrive: non era meglio forse salvare Lehman Brothers? Vediamo, quello è stato forse un grosso errore di valutazione, ma non si sarebbe risolto tutto con Lehman Brothers. Comunque, adesso ci arriviamo, anche perché vi faremo ascoltare alcuni dei passaggi delle dichiarazioni di allora nel raccontare con due dei quattro autori di questa inchiesta del Sole 24 Ore come è cambiato il mondo in soli 2 anni. Dicevo, un dato sull'Italia: le famiglie italiane, nonostante la debolezza del ciclo economico, confermano una capacità di tenuta sul fronte finanziario. Lo dice l'ABI, lo dicono le banche italiane. I finanziamenti per la casa continuano a crescere e in media la rata del mutuo costa circa il 20% del reddito familiare disponibile. E per fortuna le nuove sofferenze, quindi le nuove difficoltà, sofferenze bancarie, non sofferenze diciamo umane, ma di chi ha chiesto un mutuo, sono assolutamente basse, quindi vuol dire che non c'è una grossa difficoltà nel ripagare i mutui. Però poi arriva Equitalia a dire che gli italiani sfruttano sempre di più l'opportunità di versare rate, tasse e contributi non pagati, praticamente concesse rate per l'equivalente di 12 miliardi e mezzo di euro. Questo per quello che riguarda il dato dell'agenzia che si occupa della riscossione appunto di tasse e tributi. Queste le notizie della giornata. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, abbiamo detto 3 anni fa, potremmo dire anche 2 anni fa, insomma, ho un ricordo non bellissimo dell'agosto del 2007 e dell'agosto del 2000 e poi settembre, figuriamoci, del 2008. In realtà, visto che questo è il periodo, nell'agosto del 2007 iniziano appunto le prime crepe nella diga, nel settembre del 2008 la diga si rompe veramente e si arriva chiaramente a Lehman Brothers, questo per dare la differenza. Nel frattempo però è successo un po' di tutto, e soprattutto questa crisi, c'era un bel intervento di Mario D'Aglio su Sole 24 Ore, un po' come certi virus, continua a mutare, un po' come la malaria, mettiamola così. Muta le resistenze, muta le capacità di attacco e infatti è passata da essere bancario finanziaria sui mutui a essere una crisi dei debiti e dei deficit dei singoli paesi, poi una crisi di sistema, diciamo, occupazionale e economico, e adesso di nuovo qualcuno in qualche modo evoca lo spettro di nuove crisi, di nuove bolle. Cerchiamo di ripercorrerla per punti, come ha fatto il Sole 24 Ore, una bella inchiesta che è iniziata lo scorso 6 agosto. Allora, gli autori sono Maximilian Cellino, Moria Longo, Walter Riolfi e Marco Valsania, firme e nomi che avete imparato a conoscere anche in questo programma. Ringrazio 2 dei 4 autori, gli altri sono chi in vacanza, chi impegnato nel lavoro, ma insomma 2 su 4 mi sembra già una buona media, e quindi grazie a Maximilian Cellino e a Walter Riolfi. Nostri buongiorno. Allora, partiamo da dove voi avete iniziato il racconto. È il 2007. Forse qualcuno l'ha già dimenticato, c'è una società che si occupa di mutui, di case. Pochi la conoscono, noi stessi rimanemmo molto sorpresi quando allora arrivò la notizia. Si chiamava American Home Deposit e inizia a scricchiolare. Già prima c'erano state voci sulla difficoltà di una banca d'affari americana, Bear Stearns. Walter Riolfi, obiettivamente il 6 agosto del 2007 e nei mesi successivi, nonostante le crepe, i segnali, a me ricorda molto il racconto di Paolini, di Marco Paolini sul Vajon, cioè tutti ignorano i segnali iniziali, nell'agosto 2007 e nei mesi successivi pochi ritengono che si stia per scatenare veramente il diluvio. Beh, 2007 comincia a diventare evidente che c'è la crisi, ma è una crisi, si pensa sia una crisi solo del credito, della liquidità legata ai mutui subprime. Si dice i mutui subprime tutto sommato sono una minima parte rispetto alla montagna dei mutui americani. Certo, saltano le società che si sono riempite di questa carta un po' tossica, però c'è ancora l'idea che il fenomeno si possa circoscrivere, no? E quest'idea tra l'altro dura per oltre un anno. Nell'agosto del 2008, quindi poco prima del crollo, 15 giorni diciamo dal crollo di Lehman Brothers, IG, Fannie Mae, Freddie Mac, eccetera eccetera, la gente era convinta che il peggio della crisi fosse passato. E tra l'altro lo dice l'amministratore delegato della maggior banca italiana, Alessandro Profumo, verso proprio gli ultimi giorni di agosto, dice: il peggio della crisi ormai è alle spalle. 15 giorni dopo la fine del mondo. Ecco, non diamo la colpa a Profumo, no, nel senso che pure qualche responsabilità, come molti banchieri, ce l'ha. No, la cosa interessante è quando tu ricordavi, cioè dal, e voi lo raccontate bene nella prima puntata, do la lista delle puntate così poi mi levo anche di torno le informazioni di servizio. La prima puntata è andata in onda, o meglio in stampa, il 6 agosto, la seconda, lo dico a chi volesse collezionare, l'8 agosto, poi c'è la terza parte della vostra inchiesta che è dell'11 agosto, la quarta parte è del 17 agosto, cioè di ieri, e poi nelle prossime settimane. Dicevamo, e tu ricordavi, nonostante tutta questa segnali, Bear Stearns, American Home Deposit, i vari avvertimenti di Schiller, di altri, Rubinino, Rogoff, vado a memoria, insomma il premio Nobel, il recente premio Nobel all'economia, insomma vari avvertimenti, ma insomma il sistema continua a far finta di nulla. Sì, c'è uno scricchiolio di alcuni soggetti, ma non è sistemica la crisi. E non solo la gente lo pensano anche soggetti importanti. Io vi faccio ascoltare, ormai l'abbiamo fatto ascoltare già altre volte, ma l'intervento di Jean-Claude Trichet, presidente della Banca Centrale Europea, che insomma dovrebbe avere cognizione di causa, il 3 luglio del 2008, quindi stiamo parlando di due mesi scarsi, a due mesi dalla crisi, poi dal fallimento di Lehman Brothers, la Banca Centrale Europea, sapete già dove vado a parare, aumenta i tassi di interesse, perché il problema, un po' come il traffico di Benigni, come il problema di Palermo, il problema della Banca Centrale Europea è l'inflazione. We decided at today's meeting to increase the key ECB interest rates by 25 basis. Alla riunione odierna abbiamo deciso di alzare i tassi di interesse di 25 punti base. La decisione è stata presa per prevenire effetti di second round sui prezzi e per contrastare i rischi al rialzo per l'inflazione nel medio periodo. L'inflazione ha continuato a crescere in modo significativo dallo scorso autunno e ci aspettiamo che i prezzi al consumo rimarranno alti per un periodo più lungo di quanto avevamo previsto. I fondamentali dell'economia della zona euro restano solidi, ma continuano a esserci rischi al ribasso. Penso che in questo momento non ci sia nessuno che dica che ci sono episodi di stagflazione a livello globale. Penso che stiamo assistendo ad un momento in cui l'economia globale sta dimostrando di tenere. At the global level have an economic situation which is a situation where growth is there. Vabbè, Walter Riolfi, poi arriviamo alla parte, diciamo, all'evoluzione del virus con Maximilian Cellino, ma insomma, Trichet, preso una di quelle topiche per cui non dovrebbe chiedere scusa nella vita, non era l'unico, perché noi abbiamo trovato un intervento ancora più interessante, è un po' come sparare sulla Croce Rossa, di George W. Bush, il 15 settembre del 2008, quindi praticamente pochi istanti prima, il più grande crack finanziario della storia. Sentite cosa dice Bush sull'economia americana. Washington, 15 settembre del 2008. I know Americans are concerned about the adjustments. Sono consapevole che gli americani sono preoccupati a causa degli aggiustamenti a cui stiamo assistendo sui mercati finanziari. La Casa Bianca, con la mia amministrazione, si sta concentrando sugli attuali eventi. Stiamo lavorando per ridurre le turbolenze sui mercati e minimizzare l'impatto di questi sviluppi sull'intera economia. Sono stato in stretto contatto con il segretario al Tesoro Paulson per tutto il weekend. Ho apprezzato il lavoro svolto dal Tesoro, dalla Federal Reserve, dalla SEC e dalle maggiori istituzioni finanziarie, sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, nel promuovere la stabilità del sistema finanziario. Nel breve termine, gli aggiustamenti sui mercati finanziari possono essere dolorosi, sia per le persone preoccupate per i loro investimenti che per i dipendenti di alcune società. Nel lungo termine, sono convinto che i nostri mercati finanziari siano flessibili e robusti e che possano adattarsi a questi aggiustamenti. Allora, il processo dopo è sempre difficile, mi fa mercati e economia americana robusta. Ci sono degli aggiustamenti, alla faccia dell'aggiustamento, Walter. Io lo credo. Prego. Io lo capisco, Bush, poverino Bush, di economia non sapeva nulla, diceva quello che gli raccontavano i suoi consiglieri. Ecco, ma poi il mestiere del presidente è quello di dispensare buon umore, no? Ottimismo, eccetera. Però prima, quando tu accennavi a Greenspan, che adesso si permette di fare il gufo e pronosticare una mini recessione, questo qui non ne ha indovinata una. Negli anni 90 ha minimizzato la bolla di internet, e negli anni fino al suo mandato del 2006 lamentava qualche discrasia all'interno del sistema del credito americano, senza accorgersi che invece stava andando diritto verso la catastrofe. Quindi non ha visto nulla, e adesso si permette, può darsi che in questo caso abbia anche ragione, però insomma l'uomo secondo me dovrebbe stare abbastanza zitto, visto che non ha un brillante passato. Però insomma, questo era per dire che non erano solo i cittadini e alcuni banchieri, c'era l'intero sistema. Da noi si stava, anche da noi si diceva attenzione, quella crisi non è ancora arrivata, ma insomma l'intero sistema finanziario e politico, mi riferisco agli Stati Uniti, che diceva attenzione, sì, ci sono degli aggiustamenti, ci sono degli scossoni, la banca centrale intanto aumentava i tassi, il problema sembrava essere il petrolio, Goldman Sachs diceva che sarebbe arrivato a 260 dollari, ma insomma era un altro film quello che ci si aspettava di vedere quando si sono spente le luci su Lehman Brothers. Da quel giorno, come voi scrivete, Walter Riolfi, si capisce una cosa, quindi finisce la fase 1, la fase degli scossoni, delle crepe, degli aggiustamenti, come li ha chiamati con un Nobel all'eufemismo George W. Bush. Perché finisce la fase 1? Perché una regola che sembrava chiara per la comunità finanziaria, che in americano va sotto il nome di too big to fail, cioè quando sei troppo grosso nessuno ti farà mai fallire, con Lehman Brothers viene meno. Errore, non errore, sarebbe cambiato qualcosa, sarebbe cambiato nulla, Walter? Col senno di poi è stato un errore, perché ha aggravato enormemente le conseguenze della crisi. Diciamo che probabilmente la crisi sarebbe arrivata lo stesso anche dopo il salvataggio di Lehman Brothers. Non a caso due giorni prima avevano salvato Fannie e Freddie Mac, che erano ben più grosse e ben più importanti di Lehman Brothers. Il giorno prima è stata salvata, di fatto nazionalizzata, AIG, che era la più grande assicurazione al mondo. Quindi poi Merrill Lynch, che era passata alla Bank of America. E quindi l'episodio di Lehman, diciamo che ha aggravato, probabilmente Paulson avrebbe dovuto salvarla. In realtà Bernanke, il presidente della Fed, voleva salvarla, e sembra che sia stato Paulson a un certo punto a dire lasciamola andare, no? Allora, vedo molti messaggi al 349-238-6666, poi rispondiamo con calma. Siamo arrivati a ottobre. Allora, avete appena ascoltato Bush di settembre, ve lo dico perché adesso vi fermo a sentire Bush di novembre. Ora, cambiare idea nella vita è anche un segno di intelligenza, non avere le idee chiare un po' di meno. Però sentiamo sia Paulson, che era il suo segretario al tesoro, il suo ministro all'economia, non dopo aver fatto fallire Lehman, ma quando una volta fallita Lehman crolla tutto, il mercato non si tiene più in piedi, le banche non si prestano soldi, il tasso Euribor, come voi ricordavate, il tasso con cui le banche si prestano soldi schizza al 5%, ma il mondo si bloccano i cargo di fronte ai porti di Anversa di Hong Kong e di Shanghai, si bloccano i prestiti tra le banche, nessuna banca si fida più a prestare soldi alle altre perché non sa quello che hanno in pancia e non sa quanti derivati, quanti di questi strumenti ad altissimo rischio passati di mano 10, 20, 30 volte con esposizioni e con effetto leva al 20, al 30, al 40 siano nelle pance delle altre banche, quindi per non saperne leggere né scrivere non prestano soldi. Il meccanismo si blocca, l'unica possibilità è iniziare con i piani di intervento degli stati, cioè la vecchia regola del 29. Le banche centrali iniziano a comprarsi loro i prodotti tossici in mano alle banche private, in pancia alle banche private, gli stati iniziano a dare le cosiddette ciambelle di salvataggio, cioè buttare centinaia di miliardi di dollari o di euro sul mercato per dire il sistema lo garantiamo noi, ci sarà liquidità, ve li prestiamo noi i soldi. 700 miliardi di dollari, il primo pacchetto, quello del mitico Paulson e Bush che diceva qualche aggiustamento ma la nave va, poi altri 800 ne ha dovuti mettere Obama, siamo a 1500 miliardi solo quello che l'America ha stanziato. E sentiamo Paulson il 23 di settembre, sono passati 10 giorni dalle dichiarazioni di Bush, dire il maxi piano era l'unica cosa da fare se no il sistema crollava. 700 miliardi di dollari appena stanziati dal governo americano. As we've worked through this period of market turmoil, man mano che ci addentravamo in questa fase di crisi dei mercati, abbiamo agito caso per caso. Prima abbiamo affrontato i problemi di Fannie Mae e Freddie Mac, poi abbiamo lavorato per preparare il mercato al fallimento di Lehman Brothers e poi c'è stato il prestito ad AIG. Siamo intervenuti, abbiamo stabilizzato il mercato. Grazie a Dio abbiamo agito in questo modo, perché altrimenti ci saremmo trovati di fronte a una situazione ben peggiore. La crisi dei mercati che stiamo vivendo oggi pone grandi rischi ai nostri contribuenti. Quando il sistema finanziario non funziona come dovrebbe, viene minacciata la capacità di risparmio, la fiducia dei consumatori e la capacità di creare occupazione. La migliore forma di protezione dei contribuenti risiede nella stabilità del mercato che stiamo promuovendo, rimuovendo gli asset rischiosi dal sistema finanziario. E non è un elemento da dimenticare. Credo che questo approccio coraggioso costerà agli americani molto meno di quanto sarebbe costato agire diversamente. Don't forget that. I am convinced that this bold approach will cost American families far less than the alternative. E quindi lo stesso Paulson, che non aveva voluto salvare Lehman Brothers, dopo qualche giorno deve tirar fuori al governo americano 700 miliardi di dollari che non basteranno, perché Paulson si illude in questa intervista e in questa dichiarazione al congresso, al senato statunitense, ne serviranno almeno altri 800 di più per tranquillizzare il sistema. Ma vogliamo, non prima del meteo, della pubblicità, non possiamo non farvi sentire Bush, che così come era sicuro 2 mesi prima che l'economia americana fosse robusta, che fossero solo gli aggiustamenti, che la finanza potesse tranquillamente sostenere la situazione, 2 mesi dopo ha leggermente cambiato idea e annuncia che dopo aver salvato Citigroup potrebbero esserci altri salvataggi in vista. Circa la decisione di ieri che riguarda Citigroup, voglio dire che abbiamo preso decisioni di questo tipo nel passato, l'ultima la scorsa notte, e forse ne verranno prese ancora in futuro per salvaguardare il nostro sistema finanziario. Ho parlato con il presidente eletto Obama sull'azione decisa ieri. Ho detto al presidente eletto nel corso del nostro primo incontro che ogni qualvolta prenderemo decisioni importanti durante il periodo di transizione, sarà prontamente informato, così come lo sarà il suo gruppo di lavoro. Il segretario Paulson sta lavorando a stretto contatto con la squadra di transizione del presidente eletto Obama ed è importante per gli americani sapere che esiste questa stretta cooperazione. È importante che gli americani sappiano che faremo tutto il possibile per salvaguardare il sistema finanziario, primo passo necessario per arrivare alla ripresa economica. Vabbè, questo insomma, con il primo pacchetto Walter Iolfi si chiude, possiamo dire, la fase 1. Visto che dopo il metro e la pubblicità passeremo alla fase 2 con Maximilian Cellino, che cosa, diciamo, si può trarre come lezione, come titolo della prima fase di questa crisi? Qualcosa evidentemente non ha funzionato, perché il contingentamento, la barriera di protezione, per quanto enorme, non ha retto, forse è arrivata anche un po' tardi. Walter. Più che tardi, non è che non abbia funzionato, perché a un certo punto si sono mosse anche abbastanza bene le varie autorità, sia monetarie sia le autorità politiche. Il problema è che la crisi ormai era stata innescata anni prima e questo processo era praticamente impossibile da fermare. Nel momento in cui le banche non si fidano più di una dell'altra e si congela completamente il sistema del credito, è stato un passo arrivare alla recessione. I governi sono intervenuti, hanno speso un fracco di soldi per cercare di salvare le cose e alla fine sono stati quelli che ne hanno patito le conseguenze, come ha dimostrato la crisi dei debiti sovrani in Europa e come sta dimostrando quella latente in America, che è quella la cosa più pericolosa. E adesso ci arriviamo, non perdetevi la seconda parte di questa bellissima ricostruzione di come si finisce nella più grande crisi dal 29 senza rendersene conto. Meteo, pubblicità e poi torniamo alla seconda fase, la seconda puntata. Il trasferimento dei debiti, degli errori che tanti guadagni avevano creato i grandi manager di Wall Street, Richard Fuld, miliardi e miliardi di dollari guadagnati, insomma, come si trasferiscono, si diceva una volta, la capitalizzazione dei profitti, la socializzazione delle perdite, beh, insomma, qui proprio statalizzazione delle perdite, tutti i debiti e la robaccia che il sistema finanziario si era messo in pancia vengono trasferiti a pie pari a noi cittadini, a pantalone che paga e agli stati tramite deficit e debito. Ne parliamo dopo il meteo. 349-238-6666 per i vostri SMS. C'è stato il collasso del sistema per una ragione molto semplice, che sono scesi in campo i governi. Questo è avvenuto in America ed è avvenuto in Europa. In Europa i governi scendono in campo quando si comincia a rimuovere il divieto di aiuti di Stato sugli interventi bancari. Chiudo dicendo che a una fase eccessiva di ideologia del mercato, che nulla ha a che vedere con il liberalismo, e adesso sono tornati i governi, è tornata la mano pubblica, è tornata la politica. La stupidità porta a dire ci sarà l'eccesso di segno opposto. Io non ci credo affatto, c'è un ritorno della mano pubblica, ci sarà in prospettiva un progressivo equilibrio, non ci sarà solo una mano, come ci ha fatto la natura, ci sono due mani. Così il ministro Tremonti e siamo a marzo, anzi aprile del 2009. Nel frattempo gli stati europei e occidentali, America e Europa soprattutto, hanno imbarcato qualcosa come 1.500 miliardi, cifra complessiva si oscilla, insomma, di deficit e debito. La cosa impressionante è che se paesi virtuosi come la Germania, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, fino al 2008 avevano un deficit, pensate, la Germania ce l'aveva a zero. La Gran Bretagna aveva sostanzialmente viaggiava intorno al 3%, gli Stati Uniti intorno al 4%, in un anno, cioè a fine 2009, la Germania ha il deficit che è schizzato al 6%, cioè due volte quello, il doppio rispetto a quello consentito da Maastricht. La Gran Bretagna ha un deficit che viaggia all'11%, una cifra greca, e gli Stati Uniti hanno un deficit che viaggia al 10%, tutto in un anno. Maximiliano Cellino, che cosa è successo in quell'anno, cioè che era poi l'anno scorso? Per salvare il sistema si sono sostanzialmente capitalizzati, socializzati tutti i buchi, la robaccia, i prodotti tossici in mano alle banche e si è dovuto garantire che i conti pubblici avrebbero sopperito a quello che era l'assenza di fiducia tra del sistema bancario e finanziario in generale. Maximiliano. Sì, noi l'abbiamo chiamata la fase 2 della crisi. Gli enormi debiti si trasferiscono dalle banche agli stati. Tutti lo sanno che il prossimo problema saranno i bilanci pubblici degli stati, però anche qui serve un casus belli come per Lehman, per far capire che le cose non possono più andare avanti così. Il casus belli è la piccolissima Grecia. Vale il 2% del PIL dell'Europa, eppure provoca una sorta di reazione a catena, quasi come Lehman, che mette in difficoltà moltissimi paesi. Cioè, voglio dire, la cosa interessante è questa: per mesi gli stati continuano a imbarcare deficit, salta Maastricht, che torna a essere un piccolo paese del centro Europa, imbarcano debito, l'America sta viaggiando con un debito che, se si somma quello federale con quello degli stati, ha già il 140% del PIL, più alto di quello italiano. E poi la Gran Bretagna, che era un paese virtuoso, ha un debito che viaggia al 90% del PIL. Imbarcano debito e conseguentemente anche deficit per salvare il sistema finanziario. A un certo momento però qualcuno dice che il re è nudo, e lo dice il caso greco. Nel frattempo però vi voglio far ascoltare il presidente della Banca Centrale Americana, e quindi la Federal Reserve, Ben Bernanke, che mentre gli stati imbarcavano debito, deficit, le banche centrali compravano obbligazioni, compravano prodotti tossici, Bernanke, insomma, a marzo del 2009 era abbastanza ottimista. La domanda alla CBS, 60 Minutes, quando finirà la recessione, così rispose. La lezione che la storia ci insegna è che non si può raggiungere una sostenuta ripresa economica finché il sistema finanziario è in crisi. Abbiamo notato dei progressi sui mercati finanziari, senza dubbio, ma fino a che non vediamo una stabilizzazione completa e un pieno funzionamento del sistema finanziario, non assisteremo alla ripresa. Abbiamo un piano, ci stiamo lavorando. Penso che riusciremo a stabilizzare la situazione e che vedremo la fine della recessione probabilmente entro fine anno. Assisteremo alla ripresa all'inizio del prossimo anno, ripresa che accelererà col passare del tempo. Il declino comincerà a moderare il passo. Non torneremo alla piena occupazione, ma vedremo, spero, la fine degli importanti fattori critici che hanno pesato così tanto negli ultimi trimestri. Gli elementi chiave rimangono il sistema finanziario e il sistema bancario. Riguardo la disoccupazione, è difficile dire dove stiamo andando. La disoccupazione sta salendo e la perdita di posti di lavoro è molto significativa. E senza dubbio la disoccupazione aumenterà ancora, ma ripeto, penso che se riusciamo a stabilizzare il sistema finanziario, allora vedremo alla fine la possibilità di gettare le basi per la ripresa. Penso che abbiamo evitato il rischio di piombare in una grande depressione. Sono convinto che abbiamo già superato quel punto. Ora si tratta di fare funzionare la macchina in modo corretto. Il maggior rischio in questo momento sarebbe quello di non avere la volontà politica di risolvere il problema e lasciare che le cose seguano il loro corso. In questo caso non potremmo contare sul raggiungimento della ripresa. È un po' ottimista Bernanke, non è che la crisi sia finita con la fine del 2009, però la cosa interessante di Maximilian Cellino è questa: quando a marzo-aprile le agenzie di rating iniziano a bastonare i debiti di Grecia, Portogallo, Irlanda, anche Italia e Spagna, il mercato scopre all'improvviso che questi paesi hanno imbarcato enormi quantità di debito deficit per salvare le banche. Due cose interessanti: nel frattempo le grandi banche d'affari sono già tornate inutili, quindi da prima a uscire dalla crisi è stata la struttura del sistema finanziario che la crisi l'aveva creata, cioè il cerino è passato in mano ai governi e lì è rimasto. Però quando arriva l'attacco a marzo-aprile alla Grecia, con la Spagna, il Portogallo e l'Italia a seguire, vanno malissimo anche i titoli bancari. Come mai? Continuando sulla tua metafora, il cerino passa di nuovo alle banche. Un meccanismo è semplice e, se si vuole, anche perverso, perché sono le banche. Sono lo Stato, gli stati che finanziano le banche per salvarle, ma in fin dei conti sono le stesse banche che finanziano gli stati attraverso l'acquisto dei titoli di Stato. Si sa che gran parte dei BOT, degli altri titoli, dei paesi, soprattutto dei paesi come Grecia, Portogallo, sono in mano alle banche. Nel momento in cui c'è la crisi di questi titoli, nessuno li vuole più acquistare, i prezzi scendono, è chiaro che anche le banche devono riconsiderare il proprio portafoglio e fare dei tagli. E c'è anche un aggravante in questo, e se si vuole anche una beffa, perché molte banche in realtà avevano acquistato questi titoli prendendo a prestito il denaro che la Banca Centrale Europea... Questo va spiegato, è incredibile, perché allora cosa succede? Il tasso con cui le banche si finanziano con la BCE, che è la banca madre, diciamo, è un tasso bassissimo, a zero, vicino allo zero. L'1% per quantità illimitate. L'1%. Allora le banche cosa stanno facendo? Fanno come la vecchietta, nel senso che comprano all'1%, prendono in prestito all'1% della BCE e poi investono non sulle piccole e medie imprese, non sui grandi progetti infrastrutturali, ma indovinate un po', sui bot, sui BTP che rendono comunque un po' di più. E infatti cosa hanno i bilanci li hanno rimessi a posto così, perché è più difficile concedere credito a un'impresa che non comprarsi un bel bot. Piccolo dettaglio che tu ricordavi, quando iniziano a esserci pressioni sui bot, sui BTP di Grecia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Italia, le banche si accorgono che sono piene di sta roba e quindi vengono bastonate dalla borsa, che sa che se crollano, se saltano questi stati, saltano anche le banche. E quindi siamo nel pieno della fase 2, quella che si scatena a marzo-aprile. Il traffico, la borsa slitta di qualche minuto, ma penso che possa aspettare anche la borsa oggi. E poi la fase 3, quella in cui ci troviamo, le ho accorciato un po' le vostre fasi, voi siete già alla 4, noi per sintesi radiofonica le accorciamo in 3. 349-238-6666 per i vostri sms, terza parte di questa ricostruzione dopo il traffico. Allora, dicevamo... Governi che hanno imbarcato debito e deficit, banche che comprano, allora, insomma è una specie di cerchio, no? Le banche scaricano i loro problemi sui governi, i governi emettono bot, a quel punto le banche si comprano i bot e il cerino continua a girare. Walter Iolfi, in tutto questo non possiamo dimenticare però che questo è l'aspetto finanziario. Nel frattempo il 2009 è l'anno in cui l'economia si blocca, il fatturato delle imprese crolla intorno al 25-30% in media in Italia e la disoccupazione torna a livelli di 3-4 anni prima. Maximiliano Cellino, scusa. Sì, esatto, questa ovviamente è l'altra faccia della crisi, quella che tutti i giorni vediamo, però è anche un aspetto che poi continua ad avere effetti anche di nuovo sui debiti degli stati, perché tu prima hai accennato al virtuale 140% del debito sul PIL americano degli Stati Uniti. È chiaro che se nei prossimi 5-10 anni avessimo la prospettiva di una crescita continua, questo debito sarebbe, dico, abbastanza facilmente assorbibile, almeno dagli Stati Uniti. Se invece si preannuncia quello che temono molti, di cui si torna a parlare in questi giorni, lo spettro di una nuova recessione, una nuova ricaduta, allora è chiaro che in questo modo il debito è destinato a scoppiare. Questo sarà il problema dei prossimi mesi, se non anni. E arriviamo alla fase appunto 3, quella in cui siamo adesso, i prezzi delle case cinesi triplicati, le tensioni sull'inflazione in Cina, ma lasciando stare la Cina per un secondo, noi, da come la vedo io, ci troviamo in una situazione con ormai deficit e debiti così alti che non possiamo reggere un'altra crisi. Le banche stesse si stanno leccando le ferite, a mio avviso hanno molte sofferenze che non riescono a dichiarare, ma questo è un sospetto. E il sistema non potrebbe reggere un'altra Lehman, un altro scoppio della bolla. Tant'è che il lungimirante Trichet, quello dei tassi rialzati a luglio del 2008, ha dichiarato una settimana fa nemmeno: beh, la ripresa c'è, ma non ce la sentiamo di dichiarare la vittoria. Siamo cauti una volta tanto, Trichet. We had good indication both the second quarter and probably the third quarter. Abbiamo ricevuto indicazioni molto positive riguardo al secondo trimestre e probabilmente anche nel terzo trimestre la crescita sarà migliore del previsto. Certamente però non stiamo cantando vittoria per quanto riguarda la ripresa economica, perché permane ancora incertezza e la crescita rimane disomogenea. Siamo in una situazione in cui è chiaro che probabilmente il secondo semestre sarà meno forte rispetto al secondo trimestre 2010, che ci aspettiamo dia risultati molto lusinghieri. Rimango prudente, anche se in base alle ultime informazioni disponibili, il quadro generale risulta migliore delle attese. Se ricordate bene, dopo la drammatica caduta dell'economia lo scorso anno, quando si è visto un primo rimbalzo, non abbiamo cantato vittoria. E abbiamo fatto bene alla luce dei dati dell'ultimo trimestre 2009 e del primo del 2010. Quindi direi buone notizie, ma rimaniamo prudenti e cauti. Allora, Walter Jolf, in questa ricostruzione che vedo che piace agli ascoltatori e ne siamo più che contenti, ogni tanto ad agosto riusciamo anche a ragionare, a respirare, oltre che a raccontare la cronaca quotidiana. In questa fase in cui siamo, come diceva Maximiliano Cellino, la migliore delle ipotesi è che l'economia, grazie alla Cina, al Brasile e un po' forse anche all'America, continui a crescere, un punto e mezzo, due, la Germania è ripartita, in questo modo gli stati possono assorbire, come si fa con un trauma, il trauma, i deficit, i debiti che hanno contratto, e tutta la situazione si stabilizza, si normalizza. Devo dire che l'asta dei titoli irlandesi l'altro ieri è andata bene. Questa è la versione A, il lato che ci piace. C'è sempre un lato B che non è quello che piace ad alcuni, ma è la versione negativa. Che cosa potrebbe andare storto, ossia quali sono i rischi di bolla che aleggiano sulla finanza e quindi anche l'economia mondiale? Allora, c'è già qualcosa che va storto ed è il fatto che l'economia sta è in recupero, ma è un recupero talmente lento, diciamo che Trichet è stato abbastanza ottimista, è comunque talmente lento, per cui questa situazione non è più comparabile a quella degli ultimi 30-40 anni quando si usciva dalle precedenti recessioni, no? E un'economia che cresce così lentamente significa meno tasse per lo Stato e il problema dei debiti sovrani quindi è destinato a durare. Due o tre giorni fa c'è stato il problema dell'Irlanda che ha dovuto salvare una banca, l'Anglo-Irish Bank, a roba genere, e lì sembra che il salvataggio possa costare tra i 5 e i 20 miliardi di euro. Ma robetta da niente. Poi cosa potrebbe andare storto? Per esempio in Cina. La bolla immobiliare in Cina, 65 milioni di case vuote non invendute, si è costruito in maniera dissennata. Ma il rischio di una bolla, che Schiller avanza oggi in questa notizia che abbiamo letto, di una bolla immobiliare negli Stati Uniti, che non si sia sgonfiata la bolla delle case americane, c'è o non c'è secondo te? Allora, i prezzi delle case sono calati mediamente, mi pare, dal 20-25% sì, dal picco del 2006. Il problema è lo stock di case invendute negli Stati Uniti, che ha raggiunto, penso, il massimo storico anche in termini relativi. E da notare che l'America ha un grande bisogno di case perché ha comunque un'immigrazione che adesso è stata frenata, ma ha sempre avuto un'immigrazione che è quella che fa crescere anche la popolazione. Quindi c'è ancora il rischio, però il timore più grosso tu lo vedi. Il mercato immobiliare americano, come hanno dato anche i dati degli ultimi 2-3 giorni, probabilmente non ha ancora toccato il fondo. Quindi aspettiamoci ancora qualcosa di peggio. Allora, c'è un bene che è bene rifugio, è l'oro, l'abbiamo visto tutti. Vorrei chiudere questo approfondimento, questo racconto, e chiedo anche scusa se abbiamo contratto un po' lo spazio di borsa ai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, ma ne valeva la pena a mio avviso. In una battuta, Maximiliano Cellino, voi oggi scrivete: l'oro vale oro, continuerà a salire come bene rifugio, perché se questa è l'incertezza, se le banche sono così incerte che si comprano i bot della vecchietta, figuratevi se noi dobbiamo comprarci le azioni delle banche. Beh, in questo momento appunto l'oro è destinato, sembrerebbe, viste le premesse, essere destinato a salire. Il meccanismo, lo hai detto te, è abbastanza chiaro, si arriva a beni rifugio. Attenzione, beni rifugio sono anche a volte le valute, perché abbiamo visto il dollaro, paradossalmente, visti i debiti degli Stati Uniti, è un bene rifugio, lo yen stesso è un bene rifugio. L'oro lo vediamo ogni giorno e al di là della domanda che frena, soprattutto la domanda dall'India cresce e molti vedono nell'oro una possibile bolla. Della crisi valeva $250 l'oncia e siamo arrivati a 1200. Ecco, non so quanto possa essere quali possano essere i problemi scatenati da una bolla dell'oro. Sarà una bolla come quella finanziaria, insomma, non so quanto. Comunque, visto che vi mancano ancora due puntate, vi riavremo in studio perché voi avete fatto, se mi guardi sorpreso, mancano ancora due, una puntata sola? Non vi avevano avvisato, ne mancano due. No, scherzo, una puntata sola, vi riavremo in studio. La nuova era della finanza ha avuto questo tipo di evoluzione. Ci sembrava importante ricordare quella che è un'inchiesta del Sole 24 Ore, grazie a nome anche degli altri autori, e quindi a nome anche di Moria Longo e di Marco Valsania. Grazie a Walter Rioffi e a Maximilian Cellino. Grazie a voi, buonasera. Guido Maurino, buonasera, Radio Colle Sole 24 Ore. Buonasera. Ti abbiamo un po' sacrificato oggi, raccontaci la borsa, meno 0,60% Milano, meno 0,30% Francoforte, invariata l'America e Londra meno 0,90%, a te hai un minuto scarso. Ma allora, niente di particolare oggi sulle borse, era una giornata senza dati macroeconomici significativi. L'unico motivo di attenzione era quello degli stock di petrolio, che sono scesi meno del previsto, per cui hanno portato una discesa delle quotazioni del greggio, che per un breve periodo è tornato sotto i $74 del barile ai minimi da inizio luglio. Questo ha depresso un po' i titoli del comparto energetico e delle materie prime in generale, e anche a Milano abbiamo visto appunto come Eni ha ceduto lo 0,74%, anche Saipem e Enel sono rimasti deboli. Sì, va detto, Finmeccanica meno 2, Geox meno 1,6, Intesa appunto meno 1,1 come Buzzi Unicem e Telecom Italia e Impregilo, l'1% l'ha perso Luxottica. Degli energetici hai già detto tu, i migliori Unipol più 1,1, Pirelli più 0,6, Banco Popolare più 0,5 come Tenaris e Fiat. Grazie Guido Maurino. Il GR da Sebastiano Barisoni, buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.